Alleluia. Anzi, adesso vedo che ore sono. Popolo del Signore, dai, a me me lo chiamate a mangiare. Ce la risentiamo, capa. Buona carica, buon proseguo e buona visione di Formula 1, grazie. La gamba, dai, ce la risentiamo, cambio. Cacca, ciao Bombolo, buona carica e buon tutto a tutti voi in famiglia naturalmente. E ci sentiamo alle prossime, dai. E tra un po' scappo anch'io, perché adesso cominciamo già a dare una mano in cucina a Mario, per sistemare un pochino di cosa, preparare qualche antipastino giusto per stuzzicarci un attimino l'appetito, e poi su che andiamo di porchetta. E 18 minuti, io sto guardando tutti i motori qui a Italia 1 e stanno facendo vedere tutti i prototipi vecchi della Formula 1, che è una specie di museo. E K, adesso mi canto, sto scendo in cucina, Mario, me lo guardo anch'io, Italia 1 hai detto. K di positivo, dai. E Mario, io quel ritiro e per Giuseppe ci sentiamo più tardi, Mario. E dopo pranzo entro. Buona carica anche a te quando la fai, Mario, e buon tutto. Ci risentiamo a frappi. E pronto, a frappi, buona carica e buona visione. Tutte le prossime. Ciao, ciao. K, ciao Mario.